Io sono qui a condurvi per mano attraverso la selva oscura delle vostre rabbie, dei vostri odi, delle vostre umiliazioni. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Gente che dice non ce la farete mai, dice vai ora riparte con la storia del gufo, no, cambio, la storia del calabrone, c'è cioè una cosa che non dovrebbe stare in piedi, non dovrebbe volare, eppure vola e punge anche ogni tanto e fa anche male, perché? Perché è capace comunque di vincere e di violare tutte le regole del pessimismo. Basta gufi, basta civette, basta barbagianni, è il momento dei calabroni. Sapete quella legge della fisica, no? Per cui il calabrone è troppo pesante per volare, eppure vola. Punge, punge, dice Renzi, punge. Renzi punge, il volo del calabrone. Non abbiamo voglia di fare le polemiche con i vertici europei. Io ad esempio non ho mai detto che a Bruxelles la commissione è un covo di burocrati. Vabbè, che ce l'ha anche con l'Europa? Perché ce l'ha con l'Europa? Ma non lo so. Vabbè, il calabrone punge, Renzi, alle 6:31 minuti. Questa è 24 mattino. Voglio salutare Lorenzo Nespoli in redazione, voglio salutare Peter Bescapè in regia. Guardate che... Allora, oggi... Io ieri ho detto a tutti, e spero che tutti si siano svegliati, cari amici debosciati, domani... alle 6:30 ascoltate 24 mattino, intanto perché c'è Paolo Del Debbio che saluto. Paolo Del Debbio, buongiorno. Ma perché, scusa, ma perché un debosciato deve ascoltare Paolo Del Debbio? Non ho capito. No, nel senso, cari debosciati, svegliatevi, di solito vi svegliate più tardi, sì. Invece svegliatevi. No, non mi tornava, No, non ho associato Paolo Del Debbio ai debosciati, sì, perché... mi riferisco a Peter Bescafè e gli chiedo aiuto, insomma. Pesca, sai che una in segreteria ha detto Peter Nescafè buono da bere e ci ha lasciato un messaggio. Non è male, non è male. Tu Bescafè, Bescapè. Allora, ma io ho detto Bescafè per così. Va perché va bene così. Conduttore di Quinta Colonna, come sta Salvini? Come è andata? Come sta quel fascista di Salvini? Fascista! Ma... quando la piazza s'arrabbia, Fascista, Leonardo, razzista. Razzista, che dobbiamo fare? Vabbè, insomma, siamo con Paolo Del Debbio. Apriamo intanto il Parlamento nel giorno in cui si chiude la 79esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Parlamento. Forza, forza, gente, accorrete al Parlamento. Forza, forza, tutti al Parlamento. Siamo con Paolo Del Debbio. Allora, eccoci qua, caro Paolo. Ma non sei da solo, però, come dire, sono quei momenti in cui un po' di suspense ci vuole. Chi c'è adesso? Tra un attimo te lo dico. Adesso non, roba buona? Non correre, ma sempre al Parlamento c'è sempre roba buonissima. Figurati. No, c'è buona e meno buona. Insomma, dicevo, ma è roba fresca? Ma certo, certo, ma assolutamente. Ma, oh, ma... Ho dei sospetti. No, ma non che... voglio credere. No, no, no, Cervera, no, ma che sospetti? Ma che sospetti? Ma che sospetti? Dimmi cosa ne pensi tu dei calabroni che volano. Ma io non so, ora sono confuso dall'idea di chi ci sarà dopo. Ho in mente delle libellule più che dei calabroni. Capisci? Più le libellule, chi sarebbe? Il calabrone che vola è una bella immagine, cioè perché sembra, vuol dire che l'Italia, tutti dicono che non ce la fa, invece poi ce la fa. Ce la fa. È bella l'immagine. Certo, chi l'ha detta? E come chi l'ha detta? Dai, Renzi, no? Ah, Renzi, ha detto una cosa giusta. Cioè, fai pesce in barile, ma chi l'ha detta? L'abbiamo mandata in onda prima. L'ho sentita prima, ero un attimo distratto. Ah, eri distratto. Vabbè. Sì, sì. Vabbè, comunque, caro Paolo Del Debbio, devi sapere che noi abbiamo fatto una campagna, una petizione, un contest, un appello. Abbiamo invitato a un certo punto, perché eravamo disperati, non sapevamo più come fare, di mandare tutti una mail ad Anna Pettinelli, responsabile. No, ho capito. Perché conosci Anna Pettinelli? Ma non è possibile. Di RDS, di ma non fare... Ma amica RS. RRR senza la DRS, chi lo sa, chi lo sa. Intanto ti voglio far sentire, alcuni ascoltatori sono un po' arrabbiati, o alcuni invece hanno sposato questa linea. Senti un po', senti un po'. Caro signor Milan, quella va bene, ma è che non è sta Rossella Brescia che si fa tirare troppo le calze, ma lascia perdere. È ora di finirla, noi paghiamo le tasse, voi ci trattate così. Volete fare andare Rossella Brescia da Milan? Basta! Adesso costa Rossella Brescia una cosa assurda. Secca secca, sembra una Barbie finta. Ma proprio c'hai dei gusti di donne schifosi. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei, cretino d'un Milan. Io mi faccio una bella telefonata invece di fare alla direttrice per Rossella Brescia. Ma comprati un bel poster, così ti rifai gli occhi e la finisci una volta per tutte. Rossella Brescia! Ma buongiorno! Free Rossella Brescia, ce l'abbiamo fatta! Sentila qui! Ma è stupendo! Ma è stupendo! Rossella Brescia! Ciao! Signori, è tutto vero! È Rossella Brescia, direttamente da RDS. Sì, infatti sono ad RDS in questo momento. Ho lasciato il collega da solo perché ho detto no. Ma chi se ne frega del collega? Cioè, adesso mi pazienza. Scusa, ma come chi se ne frega? Max Pagani, poverino. Ma a te Del Debbio ti interessa qualcosa di Max Pagani in questo momento? Ma con tutto rispetto, insomma. Voglio dire adesso. Mi saluti la signora che ha lasciato quel messaggio meraviglioso. Ma certo. Che è quella che lascia messaggi sempre per te, se non erro. Sì, è compulsiva, è così, è un po' arrabbiata. Dice è che mia moglie mi dovrebbe corchiare di mazzate per questo, per quest'amore per Rossella Brescia. E vabbè, che dobbiamo fare? Con mia moglie me la vedrò finita la trasmissione. Ma che vabbè. Ti vedi? Ma cosa ti vedi? Anzi, salutamela. Va bene, te la saluto. Siamo con Rossella Brescia e Paolo Del Debbio. Devo dire che Rossella, la campagna è stata una campagna massiccia, ma molto violenta, ma è durata poco, fortunatamente. Insomma, è Anna durata Pettinelli. Poco perché tu sei bravo, ma tu ti devi proporre a Renzi. Perché sei al posto di Nomo di Sensi. Di Sensi, potresti Filippo essere Sensi. Anche tu. Se lui ha qualcosa da fare potresti proporti. Sì, capito, Del Debbio, così sono rovinato. In due secondi Rossella Brescia mi ha rovinato. Perché? Ma no, ma dai, su, proporre a Renzi. Il sesto senso, bravo Del Debbio. Siamo al delirio e sono solo le 6:37 del mattino. E non oso immaginare che messaggi potrebbe lasciare in questo momento la signora di prima. Vabbè, ma domani lunedì li sentiremo, manderà i messaggi, arrabbiata. Ma sì, ma ci sono. Poi non so, è successa questa cosa, per cui tutti gli uomini scrivevano: dai, sì, chiama Rossella Brescia, le donne tutte arrabbiate. Non ho mica capito Del Debbio. Ma sicuro, perché in genere io ho tante amiche dopo. donne. Ma no, ma certo. Mi sembra strano. Ma tu lo sai che quelli che si manifestano sono il popolo rumoroso, quelli che vogliono dire qualcosa, insomma. Ma ci sta, va bene tutto. Comunque, Max D'Alecco ci scrive che ha mandato 4 mail a RDS, quindi lui... Insomma, del Debbio. Ragazzo, del Debbio, che dobbiamo ragazzo fare? Ragazzo, è un ragazzo insistente. Idee precise, Max. Vabbè, ma noi insomma per la costanza, tu. Siamo qua, sentite. Ma non è che è Max il mio collega? No, non è Max Pagani, è Max è di Lecco? È di Lecco, ah, Max. Di Lecco. No, non è di Lecco. È di Milano, Max. No, sarebbe un po' scomodo da Lecco tutti i giorni andare a Roma per fare. Vabbè, ma insomma, in questo momento quindi tu, noi ti possiamo trattenere qui, tanto tu sei in onda su RDS, ma adesso sei qui, ma è bellissima questa cosa, cross-mediale, ti piace questa roba? Sì, no? Sì, bellissima questa cosa, infatti tra un po' dovrò ritornare, facciamo in fretta. Ah, ecco, facciamo in fretta, va bene. Allora, Del Debbio, tu che sei reduce e puoi dirlo senza vergogna dalla cena di Renzi, ieri hai pagato i tuoi millini? No, io ero con un mio amico a cena e... Ho pagato un po' meno, diciamo, ecco. Dai, non eravamo in due. Ma non ti devi vergognare se sei andato con Renzi e hai pagato 1.000 euro, puoi dirlo. No, io con Renzi ci sono andato, perché dovevo andare a cena con Renzi, scusa? Per pagare 1.000 euro, finanziare il partito. Ma perché devo finanziare il partito? Ma non lo so. Io finanziare, già due figlie, più, cioè, c'ho da fare io. Quindi non eri alla cena con Renzi? No, perché? Non è c'ero. No, c'ero. Vabbè. Comunque no, si replica stasera a Roma. No, non ho capito. Sei contrario alle scene di Renzi? No, no, non è che sono contrario. No, ma mi incuriosiva, volevo sapere no, se... No, ok, non mi hanno invitato, non ci sono andato. E no, ma dovevi tu invitarti, dovevi pagare 1.000 euro e andare. Comunque stasera si replica a Roma e Rossella Brescia ci sarà sicuramente. Ah, c'è... io vado a Milano, caspita, stasera sono a Milano, no come sei veramente a Milano? Eh sì, vengo su tra un po', poi ritorno però. No, non c'è la fase. Sì. No, non mi devi dire questa cosa. Io adesso qua in redazione cioè, si sta spargendo un po' di panico, salivazione azzerata. Ma com'è no, che vieni a Milano? Eh sì, vado su a Milano per lavoro e poi torno, insomma. Vabbè. E no, non beh, ci sono, perché stasera c'è a Roma. Stasera c'è a Roma, quindi sei in tempo per tornare. Se prendi l'aereo alle 8, insomma, 9, 9 e mezza, ce la fai. Insomma. Ma devo dare 1.000 euro, no? Almeno 1.000 euro. Almeno. Puoi darne anche 2.000 se vuoi, per il Partito Democratico. Dipende un po' da cosa mangia. La sera invece non so che mangi. Cioè. No. Infatti, se infatti dai che io... quanto mangi da 30 euro. No, no, no. No, vabbè, un po' d'acqua. Credo che 1.000 euro siano proprio appena entri, pam, devi bam, no, così, col bonifico proprio, devi presentarti con il bonifico fatto e... Ma vabbè. No, danno gli imprenditori e, insomma, gente che conta, no, posto non fanno, poi ci sarebbe sempre la signora che manda i messaggi, guarda, no, vabbè, adesso no, vabbè, allora sentiamo Renzi, dopo ha detto di essere un calabrone, questa, sapete che gli hanno tirato anche le uova in faccia, sì. Cioè in faccia, no, siamo sulla macchina. Sulla macchina, e allora eccolo qui, Renzi. E quando c'è un problema, mi scatta da ridere dicendo, se vieni qua ti tiriamo le uova, io sono pronto a fare le crepe, le adoro le crepe, le ho prese oggi, le continuerò a prendere nei prossimi giorni le uova. Quando c'è una situazione di crisi occupazionale, il Presidente del Consiglio deve fare il sindaco. Cioè, ragazzi, ma come lo butti? Sembra Ercolino sempre in piedi, no? Te lo ricordi Del Debbio? Però non è un fatto, qui è un fatto significativo. Delle uova? No, il fatto che non si tira indietro. Guarda, su questo sì, su questo sì. Non è una cosa tanto abituale da noi, perché uno che tira le uova, no, ma manifestazioni violente della città, che vuol dire che il clima sta crescendo contro il Presidente del Consiglio, che è pericoloso, è un clima sociale rovente, quello scherza e dice io vado avanti. No, questo è vero, abbiamo avuto storie di Presidente del Consiglio che di fronte avanti, a contestazioni... Con va avanti con le uova, va avanti con queste, va avanti con quell'altro, io devo dire che questo fatto l'ho apprezzato assai. Lo apprezzi a fare. No, su questo è vero. Rossella Brescia, tu che ne pensi? Fa bene a sfidare le uova della gente, a dire ma chi se ne frega, reagire così con la consueta ironia, io mi faccio le crepe? Beh sì, perché comunque continua la sua linea, lui ha iniziato sfidando un po' tutti e quindi questo gli ha portato bene, ovviamente continua nella sua linea. Tra l'altro, come diceva Del Debbio, non è neanche semplice, perché dopo un po' ti prende anche lo sconforto, invece lui va avanti e bisogna darne tutti i meriti per questo. Poi bisogna capire, perché si arriverà poi a una conclusione di qualcosa, a raggiungere degli obiettivi, noi aspettiamo questi. Aspettiamo gli obiettivi, ecco, vedete che ti vedo stasera alla cena, dai! Ma vai lì, metti un microfono, poi ti rubi qualche dichiarazione, ma vuoi mettere poi RDS? Ma 1.000 euro, cioè, ma te li fai mettere dalla radio, dici, dai, non amici, mica Berlusconi, voglio dire. Che poi almeno 1.000 euro, potresti dare anche almeno 1.500. Perché dai 1.000 euro, fai pure sei lo straccione, guarda, certo, l'orto. Certo, guarda qui la stracciona, ha messo proprio 1.000 esatto. euro, mettine 1.500, 1.010, una roba del genere. Tu Del Debbio quanti ne hai messi ieri? Io ieri, da Renzi, ne ho messi 110. Ma no, ma dico, ma è vero, sì. Ma sei andato da Renzi, ma non devi vergognarti a dirlo. Milan, ora vengo lì che prendo che fuori, no, cioè, basta, va bene, basta, va bene, questa cosa presto, sa da finire, non vabbè, sono Renziano, non sono nulla, sono come te, non sono nulla, bravo, come dicono, quando dicono a me, dici, ma tu sei di qua, ma io faccio fatica a stare bene con me stesso, figurarsi se sto con qualcun altro. Fa una trasmissione politica, sente tutti, e poi non conta niente, perché penso io, cioè, ecco, no, eccola. Ma c'erano i gelati poi come dessert? I gelati, no ecco, perché, la Rossella per capire se c'era poi il dessert, perché io sono No, infatti sono due giorni che andiamo avanti con questa storia del gelato. Allora vogliamo l'hai evocato tu. Allora voglio sentire signorini, ma sta storia del gelato della Madia, io non ne posso più. Ma signorini, è stato ieri intercettato fuori da Linate, credo, dall'aeroporto. Sentite, signorini, che si deve difendere per il titolo, il gelato, la Madia. Più gelato per tutti, magari se la gente mangiasse più gelati non si inalbererebbe. Un saluto all'Algida Madia. Oddio, un saluto all'Algida Madia. All'Algida. Mamma mia. Allora, Rossella Brescia, adesso ti sei messa tu in questa situazione. Del Debbio, io qualsiasi cosa io possa chiedere adesso sul gelato a Rossella Brescia, anzi fai tu una domanda, perché capisci a me, insomma, cosa... Del Debbio, chiedi... Sì. Cosa le devo chiedere? No, sul gelato, la Madia. I gusti preferiti, no, di Rossella Brescia. Ecco, che gusti hai, Rossella, preferiti? No, sta diventando becera questa. No. Comunque, che gusti del gelato, so, cioè, è la cosa più soft. Che ti potevamo... Sì, lo so, però voglio dire... comunque, pistacchio e nocciola. Pistacchio e nocciola. Gli stessi miei. Gli stessi tuoi. Dai, su. Ti giuro, crema, pistacchio e nocciola. Ma crema non l'ha detto, peraltro. Crema non l'ha detto. Io, crema, pistacchio e nocciola, due concito. Oh, ragazzi, ma perché sono le 6:30? Ma, cioè, svelti, No, capito, vabbè, però, insomma, questa storia della Madia. Rossella, tu da donna ti sei sentita offesa da questo titolo, da questa roba pubblicata da chi? Devo dire che appunto era un titolo veramente becero, cioè ci sa fare col gelato, mi sembra avesse scritto, sì. Però ovviamente Alfonso Signorini fa il suo mestiere e quindi scrive quello che scrive, mi sembra che poi avesse fatto il paragone con la Pascale, che tra l'altro non c'entrava niente, mi è sembrata una storia di cattivo gusto, se devo essere sincera. Cattivo gusto, sì, però... Cioè, poi lui dice, sì, abbiamo parlato di... Non avete detto niente, parliamo della Pascale, non avete detto niente, anzi pare che la Pascale mandasse dei messaggi a Signorini, ti adoro, per dire, però voglio dire, non è la stessa cosa, perché ci sono persone che comunque tu parli, a loro sta bene, no? Invece ci sono persone, a parte che la Madia è anche un ministro, non è che ci siano donne di serie A e serie B, ha detto lui, sì. Però bisogna avere rispetto anche nel ruolo che ricoprono, nel mestiere che fanno. Sì, sì, vabbè, la Madia ovviamente ognuno fa il suo mestiere, tipo signorini è chiaramente... Sì, no, ma infatti signorini si difende così, dice, per me era una notizia, questa è una notizia, vabbè, insomma, al di là della notizia mi sembrava un po' una roba di cattivissimo gusto. Io devo andare al traffico, sì. Ma è vero che tu adesso decidi di mollare, di andare un attimo, sì, in diretta, sorella di essere? Mi mollo un secondo, vabbè. Poi vi saluto. Vabbè, allora noi andiamo al traffico, tu mollaci un secondo, noi, voi ascoltatori state qua su Radio 24, mica che girate su RDS per andare ad ascoltare Rossella Brescia, adesso Rossella Brescia tanto è qua, quindi oggi è qua. 24 mattino. Milan, ma cosa vuoi che ti venga a dire? Con un popolo che siamo solo delle pecore, per forza al governo ci sono solo dei lupi, hanno fame e mangiano. Milan, ti volevo solo chiedere, ma se mi occupano l'appartamento, devo continuare a pagare il mutuo oppure lo paga l'occupante? Volevo dare una comunicazione al nostro presidente del parlamentino siciliano, che se è veramente una persona corretta e sana, dovrebbero andare a zappare tutti i suoi dirigenti. O stanno con lo stipendio di 2000 euro al mese, o se ne vanno a zappare con la zappa da 7 kg. Anche per tutti quei vecchi e vecchi rincoglioniti daremo gli 80 euro. Caro Mina, prima di tutto ti voglio dire che sei un cretino. Seconda cosa ti voglio dire che invece di andare alle cene di Renzi è meglio che vai a 400 euro alle merende di Berlusconi e Verdini. Milan, Milan in serie B, la la la la la, così realizzi il tuo sogno, Milan Brescia. Vabbè, effettivamente si può fare anche così, del debbio. C'è quello che mi ha dato del cretino. Oh, ma questa storia delle case occupate, noi ci torneremo anche oggi. Tu l'hai fatta lunedì, ma è veramente incredibile. Questa è una cosa, cioè, da paese del sì, quarto mondo. Sì, tra l'altro bisogna dire con estremissima chiarezza che è un problema risolvibile. Cioè, non Infatti. È che siamo di fronte, per dire, a una malattia mortale, siamo di fronte a un problema assolutamente risolvibile e anche in tempi brevi, perché si tratta di prendere questi qua e buttarli fuori, non c'è da fare altro. Allora, e nel caso in cui si presentino con i bambini, le mamme, bisogna andare con gli assistenti sociali, quindi si fa una convocazione urgente di tutti gli assistenti sociali che sono sul territorio, si va lì. E nel caso in cui ci siano mamme con i bambini ci si prende cura ovviamente delle mamme e dei bambini e non di quei popò di delinquenti che lasciano lì le mamme e i bambini e se ne vanno a fare chissà cosa. Non essere, no, ma infatti trattati. Questa cosa di dire ci sono i bambini è terribile, ma voglio dire, ma uno occupa una casa e comunque insomma basta prendersi cura di questi e gli altri fuori a calci nel sedere. È così, c'è chi anche ha invocato l'esercito, il non governo può farlo l'esercito. Non può farlo l'esercito, la Lega vuole l'esercito, ma si sa che funzioni protettive e difensive l'esercito, non ha funzioni. Ma voglio dire le forze dell'ordine. Un'operazione speciale su questi quartieri, ad esempio di Milano, di Roma, eccetera. Dove c'è questa roba? Noi ce ne occuperemo ancora lunedì. Infatti, no, ma fate bene perché, insomma, noi abbiamo fatto una puntata in settimana, oggi ci torniamo, voi ci tornate lunedì, perché effettivamente pare, poi la racconti e la gente non ci crede, dice no, ma occupano le case, non si può. E invece sì, solo a Milano sono 4.000 case occupate. 1.300 tentativi di occupazione nell'ultimo 4.000 anno. 4.000 case avvocate vuol dire 4.000 famiglie, il che in Italia vuol dire almeno. Sì, ma poi la giungla con gente. 10.000 persone. Con capito? Gente perché che vuole. Una famiglia e due qualcosa. Ecco, allora, insomma, sono 10.000 persone. Poi sono generalmente in quelle lì ci abitano famiglie con almeno due bambini, quindi sono 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Capito? Sì. Siamo, cioè, non sono quante detto che sono 4.000 case. 16.000 persone. Sì, ma infatti. E poi la giungla, gente che si deve difendere, gente che respinge l'occupazione, cioè, bastonata. Ma persone in giro perché ci sono dei delinquenti che le occupano. Allora, capisci? Non è, Dopo dice vanno in giro quelli, ho capito, nel mondo è fatto così, c'è chi c'ha un diritto e chi no. Comunque, comunque, ne tornerete a parlarne lunedì. Ma è tornata con noi Rossella Brescia, è finito da RDS? Pronto? Sì, eccomi, eccoci, sono tornata. Eccoci, è bellissimo. Stamattina è dura. Oh, ma non è che è doppio stipendio, stai serena. No, cioè, no, no, per senso... beneficenza. No, stai serena, bene, stai serena, è renziana molto, sì. Stai serena. Però vorrei chiederti questa cosa, Rossella, tu che stai a Roma, hai preso multe perché sei entrata mai nella ZTL senza permesso? Purtroppo le ho prese le multe. Hai pagate? Le ho pagate. Le hai pagate. E alcune non le avevo pagate, mi sono arrivate anche con una bella mora, quindi... Sai che invece c'è la polemica perché c'è qualcuno, sì, uno che non le avrebbe pagate, 8 non ne avrebbe pagate, il sindaco Ignazio Marino. No, ma infatti questa è una brutta notizia, ferale direi per i cittadini di Roma e non solo, perché il sindaco dovrebbe essere integerrimo. Capisco che tra tutte le cose a cui siamo abituati, tra corruzione e cose terribili che fanno i nostri politici, ovviamente sembra la cosa più meno grave questa, però... penso sia una cosa molto grave, anche perché lui ci tiene molto all'entrata in centro, è quello che ha ridotto l'entrata in centro. Sì, ha alzato i prezzi, ci tiene all'aria aperta, in bicicletta. Sì, e infatti, ma perché non ha preso la bicicletta, dico io? Vabbè, invece ha preso la multa della bicicletta, che dobbiamo fare? Ma qui senti, c'è già la canzone, abbiamo già finito. No. Che vuol dire? Abbiamo già finito. Rossella Brescia, bella questa, Free Rossella Brescia, questa l'ho studiata da un mese. No, ma tu sei un genio, del male, guarda. Ma smettila. Sì, sì. Io vi devo salutare Paolo Del Debbio, saluto Rossella Brescia. Ciao Paolo. Posso dire una cosa che non ho mai detto a una donna, sì, in tutta la vita? Sì, a che ora smonti da RDS? A che ora smonti? Alle 9, finisce tutti i pacchi per RDS. Va bene, allora ti lasciamo. Per tutti i dubbi, per tutti, posso salutare tua moglie, che è l'unica persona di cui puoi innamorarmi. Saluta mia moglie. Ecco. L'hai ciao, salutata? Bambina, sei un amore. Va bene, certo. Ma che ti devo dire? Vabbè. Grazie Rossella, grazie Paolo Del Debbio, alla prossima! Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:20 minuti e la 79esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province va in cantiere con un nulla di fatto, ma ci sarà l'80esima settimana prossima. Sento che succederà qualcosa. Avremo la riforma elettorale? Avremo l'abolizione delle province? Chissà. Intanto oggi torneremo alle 8:15 sulla questione delle case occupate. Vi siete molto appassionati, avete anche reagito con molta attenzione a questo tema che abbiamo già trattato in settimana. Torneremo a parlarne, questa vicenda incredibile di molte case occupate. Spesso sono le case di edilizia popolare occupate da persone che non hanno diritto a rimanere lì, ma non si riesce in questi bachi della giustizia, delle amministrazioni, a fare una giustizia veloce, a mandare fuori le persone che non hanno diritto a stare nelle case, che occupano abusivamente. È un tema legato alla sicurezza nelle nostre città, di questo parleremo alle 8:15, ora andiamo a sfogliare i giornali che trovate in edicola. E allora, in questo venerdì 7 novembre, siamo intanto ad alcuni titoli, poi voglio subito iniziare alla lettura dei giornali. Intanto il Sole 24 Ore, vi ricordo, apre così: Draghi, BCE unanime sui nuovi strumenti, mentre l'apertura del Corriere della Sera è: fisco, si apre il caso Juncker a Lussemburgo.

depistaggi della Diaz. Questo è il titolo, del secolo XIX. Siamo quasi in conclusione, ci sono ancora alcune notizie di cronaca. Per esempio, mi ha colpito questa sulla stampa: ricordate il circolo dei DS di allora, del PC, o meglio, dove insomma, il famoso circolo della Bolognina, che Achille Occhetto scelse come sezione del partito alla Bolognina. Bene, sapete cosa c'è, racconta la stampa, al posto di quella sezione del partito oggi? Un parrucchiere cinese. Insomma, 8 euro taglio di capelli, 25 euro la messa in piega. Occhetto e il muro italiano, oggi al posto della Bolognina c'è un barbiere cinese. Pagina 11 della stampa, con tanto di foto. Beh, i simboli sono anche... sono anche questi, se volete. Cronaca giudiziaria, mi ha molto colpito l'articolo di Libero a pagina 16. Cari genitori, meditate. Le vietano il book da modella e lei fa processare i genitori. È la storia di una 17enne di Brescia che, per vendetta, siccome i genitori le hanno vietato di fare il book da modella, si è inventata una serie di violenze, di essere stata picchiata, segregata in stanza, malmenata dai genitori per poterli denunciare e mandarli a processo. Alla fine i genitori sono stati assolti, lei è crollata dicendo: è vero, mi sono inventata tutto perché volevo fare questo book e me l'hanno vietato. Per vendetta aveva scritto sul diario denunciando maltrattamenti inesistenti. I due assolti dopo un lunghissimo calvario. Immaginate, oltre al fatto di sentirsi innocenti, vedere la figlia che li accusa di tali reati e poi anche l'agonia di passare per presunti molestatori della figlia. E invece era tutto falso. Non ho detto niente di questa roba di WhatsApp. E non vincono gli articoli, la carta costa, questi articoli su WhatsApp che ha introdotto, cos'è, la spunta blu per capire che hai letto un messaggio. Ma chi se... vabbè, lo dico io, ma chi se ne... Vabbè. Ma il premio, la carta costa, l'articolo più inutile che ho scovato oggi sui giornali, a mio insindacabile giudizio, va a mezza pagina al Fatto Quotidiano. Fabrizio D'Esposito, il manganello rosa di Signorini, ancora al gelato della Madia, basta! Basta! Basta! 24 mattino. Siamo qui, sono le 7, sì, sono le 8, ogni tanto così mi confondo. Sono le 8 e 18 minuti, sapete com'è, dalle 6.30 in onda accade alle 8 e 18 minuti. Ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora vi chiedo, ma è o non è un problema di sicurezza il fatto che, per esempio, a Milano ci siano oltre 4.000 case occupate, ci siano stati oltre 1.300 tentativi di occupazione di case, per lo più case popolari, di edilizia popolare nell'ultimo anno? È o non è un problema di sicurezza se ieri il Corriere della Sera pubblicava una vera e propria mappa di un mese di battaglie? Veniva usato questa terminologia, battaglie, con tutti i tentativi di effrazioni, le 78 occupazioni abusive, 39 tentativi di occupazione falliti, 23 sgomberi in flagranza di occupazione, 23 sgomberi programmati con la questura, tutto in un solo mese. È o non è ancora un problema assurdo se leggo su Avvenire ieri: inquilina picchiata dagli abusivi, cioè un'inquilina che aveva il diritto di stare in quella casa, ha cercato di impedire un'occupazione, ha chiamato anche la polizia, è stata picchiata ed è finita al pronto soccorso. Noi vogliamo tornare su questo tema che già in settimana abbiamo affrontato e che ha suscitato anche molto stupore tra la maggior parte dei cittadini. Certo, soprattutto avviene magari in chi occupa, chi sta nell'edilizia popolare, quindi magari è un qualcosa che sentite lontano da voi che state ascoltando, ma è un qualcosa che succede nelle nostre città. E vogliamo tornare su questo tema che tanto ha suscitato dibattito e tante chiamate ha prodotto lo scorso martedì. Chiamate anche questa volta 800 24 00 24. C'è per esempio chi ha invocato addirittura l'esercito. È Salvini della Lega e voglio salutare il capogruppo della Lega al Senato, Gianmarco Centinaio. Senatore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Le faccio subito sentire il ministro Boschi che in un question time proprio alle Camere ha detto l'esercito non si può utilizzare. Per quanto riguarda le forze armate, la normativa vigente consente l'utilizzo dei militari, l'impiego dei militari per operazioni di controllo sul territorio, per la sicurezza dei cittadini, ma non per attività legate all'eventuale censimento di occupazioni abusive, come richiesto nella interrogazione. L'esercito no. Saluto anche l'assessore alla casa del comune di Milano, Daniela Benelli. Assessore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto, senatore Centinaio, perché avete chiesto l'esercito? È una boutade? Certo, ripristinare la legalità, questo è l'obiettivo di tutti, questo è ovvio, ma insomma, l'esercito forse è un po' troppo. L'abbiamo chiesto perché nel momento in cui le forze dell'ordine sono giustamente impegnate a fare altro, bisogna ripristinare la legalità, bisogna ripristinare il diritto delle persone che si mettono in graduatoria, che cercano una casa popolare, che rispettano le regole, e quindi bisogna rispettare queste persone e che magari l'hanno ottenuta e poi si vedono, come abbiamo sentito da lei poc'anzi, si vedono occupare abusivamente la casa che avevano ottenuto e quindi con anche i propri beni dentro, perché è capitato anche di una signora anziana che è andata a trovare la sorella che non stava bene in ospedale, torna a casa e si trova la casa. Abbiamo raccontato storie simili martedì scorso, ed è vero, succede a Milano, succede a Roma, succede in tante città italiane. Succede purtroppo Ovunque e di conseguenza la cosa che chiediamo a questo punto è, e che chiedono i cittadini, è maggiore sicurezza. Come dicevo, le forze dell'ordine sono impegnate a fare altro, esiste l'esercito. Quello che dice il ministro Boschi è sbagliato, perché questa è un'emergenza, questo è un problema di sicurezza. Abbiamo mandato l'esercito a Napoli nel momento in cui c'era il problema dei rifiuti, non possiamo mandarlo nelle nostre città a curare la sicurezza dei cittadini che hanno diritto ad avere una casa. Quindi lei dice, senatore, farlo passare come quello che secondo voi è, cioè una situazione di emergenza, e nelle situazioni di emergenza si può anche schierare l'esercito. Certo, e il problema è che il ministro Boschi non sa neanche che cosa sono le case popolari. Altra cosa che voglio dire, stiamo utilizzando l'esercito per operazioni internazionali che in questo momento sono vetuste. Pochi mesi fa abbiamo approvato il piano missioni del governo, stiamo spendendo milioni e milioni di euro per andare a portare sicurezza in zone del mondo dove pare che la sicurezza non la vogliano neanche. Io penso che il nostro esercito debba tutelarci prima di tutto in casa nostra e tutelare i cittadini in casa nostra, e proprio, proprio la parola casa capita a fagiolo. Capita a fagiolo. C'è da dire che l'immagine dell'esercito che fa gli sgombri è un'immagine un po' da scenario un po' quasi di bellico, quasi di guerra, però lei dice siamo in emergenza, e c'è da dire che in un'intervista... Lo faccia l'esercito, lo faccia la Guardia di Finanza, la Polizia, le forze dell'ordine, diciamo. Sì, ma qui ci sono anche a volte dei problemi sui quali noi abbiamo cercato di addentrarci e cercare di capire, e anche con Andrea Galli del Corriere della Sera la scorsa puntata, lui sta facendo un'inchiesta sul Corriere della Sera proprio su questo, a dire tante volte le forze dell'ordine non possono intervenire perché si entra in quella bolla tutta italiana, per cui non so, le occupazioni vengono fatte e poi vengono messe delle persone, non so, donne incinte oppure bambini, e quindi prevale il diritto, per carità, sacrosanto, di tutelare i bambini, ma in questo caso in una situazione di illegalità. Assessore Benelli, il sindaco di Milano Pisapia ha detto chiaramente l'esercito no, l'esercito mai. Come si ripristina però concretamente questa legalità? Dunque, fermo restando che sul ripristino della legalità siamo tutti assolutamente d'accordo, credo che per rimettere le cose in ordine bisognerebbe sapere che la prima responsabilità del prevenire le occupazioni abusive spetta al gestore degli alloggi popolari, cioè a colui che ha in carico la gestione degli alloggi popolari e anche la tutela del patrimonio, ovvero la prevenzione delle occupazioni, e nel caso in cui le occupazioni vengano fatte, ovviamente in quel caso con l'aiuto delle forze dell'ordine, della polizia locale e, se serve, anche di assistenti sociali, viene fatto lo sgombero. La prevenzione è un compito che avrebbe dovuto svolgere ALER, società interamente regionale, che ha in carico da molti anni tutto il patrimonio delle case popolari. L'Aller, lo ricordiamo, l'Aller è appunto l'agenzia che ha, l'agenzia regionale che controlla l'edilizia. Però lei dice, quindi spetta a loro, con ispettori, vigilante. Loro hanno, ma lo hanno per contratto. Noi abbiamo avuto un contratto che scadrà per fortuna alla fine di questo mese e passeremo a una gestione diversa, poi se vuole gliela racconto. Per contratto loro devono avere degli ispettori, dei tutor, così si chiamano nei quartieri, e soprattutto devono garantire che la custodia, cioè i custodi, i portinai, quelli che si chiamano i portinai, sì, negli stabili, i portinai lavorano di giorno e allarmano se c'è qualche tentativo di intrusione, gli ispettori intervengono, se l'alloggio è già stato occupato allora diventa sì un problema di forze dell'ordine, perché bisogna forzare A quel punto che cosa si fa? Perché purtroppo ci possono essere tutti i controlli del mondo e effettivamente la questione dei controlli è una questione seria, perché appunto ci vogliono più ispettori, più portieri, più vigilantes, però laddove c'è un'occupazione è vero che ci sono delle situazioni nelle quali le forze dell'ordine dicono non possiamo fare nulla, per esempio ci sono dentro dei bambini. Sì, è vero. Allora, noi abbiamo, mi faccio spiegare, noi facciamo settimanalmente in questura un incontro in cui programmiamo tutti gli sgomberi che vengono fatti in quella settimana, che sono sgomberi segnalati anche come quelli che appunto minacciano i vicini, minacciano la vecchietta, creano spacciano, fanno cose totalmente illegali. Allora, noi facciamo questa programmazione. Normalmente quando gli interventi sono programmati riescono, perché la forza dell'ordine, la polizia locale e gli assistenti sociali vanno, e nel caso in cui ci siano minori, donne incinta, disabili, che vengono spesso messi lì apposta per non far sgombrare l'alloggio, con l'assistente sociale normalmente si riesce a farli uscire. In qualche caso, ma sono pochi casi di fallimento, non si riesce, perché le faccio un esempio, se la donna mi si siede per terra con due neonati in braccio, neanche le forze dell'ordine si espongono al rischio di far del male, di forzare. Ecco, quindi però capisce che questa una procedura. Che questa è la situazione sulla quale, ecco, lo chiedo a lei, senatore Centinaio, lei cosa farebbe di fronte a una donna che si pone lì, si siede con due neonati in braccio, anche se in una situazione di legalità? Che cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe mandare l'esercito anche in questo caso e sgomberare con la forza? Certo, nel momento in cui una persona si pone nella condizione di legalità e sfrutta, perché in quel caso sfrutta i minori per poter rimanere in una condizione di legalità, a quel punto io sono convinto che bisogna andare avanti. Ma perché contemporaneamente magari ci sono famiglie con minori che la casa popolare la stanno aspettando, che si sono messi in lista, che sono lì, magari io ho fatto l'amministratore, ho fatto il vice sindaco di Pavia per 4 anni, avevo famiglie fuori dalla porta che quotidianamente venivano e chiedevano la casa popolare e dicevano che erano in graduatoria e che cercavano cercavano con disperazione la casa popolare. Senta, ma però, rispettavano le regole. L'aspetto politico non è un aspetto secondario. Ha sentito l'assessore, che è un po' anche quello che ha detto Pisapia, insomma questa Aler che gestisce è a controllo regionale e sappiamo che in regione il governo è leghista, è vostro. Senatore. Sì, diciamo che le case popolari non vengono gestite solamente da Aler a Milano. Adesso che il comune di Milano dica che tutte le case popolari sono gestite soltanto da Aler, e quindi vuol dire andremo a fare dei controlli in base a quello che dice l'assessore, vuol dire che a Milano casi come quelli che abbiamo visto, quindi casi di abusivismo vuol dire che non ce ne sono. Io sono contento che il comune di Milano la sa gestire bene le proprie case popolari. Dubito, perché da quello che sappiamo, dai dati che abbiamo noi, non sono solamente problemi di Aler, ma io non la voglio buttare sul politico. Il problema è un problema perché c'è la Lega. Benissimo, Roberto Maroni ieri ha chiesto proprio al prefetto un piano di emergenza per gestire questa situazione. Vuol dire che Regione Lombardia si è messa nelle mani dello Stato italiano e quindi ha chiesto un aiuto allo Stato italiano, perché molto probabilmente con Aler da sola determinate cose cose non si riescono a fare. Si vede che a Milano c'è una gestione talmente positiva e talmente bella e talmente a posto che problemi non li hanno. In realtà i problemi ci sono tutti. Assessore, però le chiedo questo. Di fronte alle 4.088, intanto sono, questa cifra è vera, 4.088 case occupate abusivamente, che leggevo sul Corriere della Sera questa settimana. Dato che abbiamo Assessore. Sì, mi dica, grosso modo, noi ne abbiamo 1.200 sul patrimonio del Comune di Milano, che sono 28.000 case, e credo che Aller ne abbia 3.500. Quindi sono 4.000. Ecco, cioè da domani... Mi deve far ribattere un attimo. Le case popolari di Milano, sia quelle di proprietà di Aller, cioè della Regione, sia quelle di proprietà del Comune, sono tutte... fino ad oggi state gestite da Aller. Basta, o volevo solo fare questo. Va bene. Se le cose non funzionano, non si può dare la colpa al Comune di Milano. Io sono d'accordo, cioè usciamo dalla polemica politica, perché il problema è un problema appunto anche di sicurezza. Perché ci sono altre cose che vanno considerate. Però le chiedo, assessore, queste 4.000 più o meno case, come si liberano? Cioè mi dica concretamente, cioè il vigilantes, il controllo preventivo va bene per evitare nuovi casi futuri, ma queste 4.000 case come si tolgono dai illegittimi inquilini? Si tolgono facendo uscire gli illegittimi inquilini dalla casa. Ma come? Gliel'ho appena spiegato. Cioè, noi mettiamo a disposizione le forze della polizia locale e gli assistenti sociali. Scusi, non è una cosa da secondaria questa, perché vuol dire affrontare il problema che nasce quando donne e minori vengono messe in mezzo a una strada, perché in quel caso l'assistente sociale le prende in carico e le porta nei ricoveri d'accoglienza. Va bene? Se una persona si rifiuta di uscire, come spesso fanno? Sono molto felice che il prefetto, finalmente dopo tante riunioni che abbiamo fatto infruttuose, oggi prende in carico il problema, perché noi da tempo diciamo che le procedure operative della polizia vanno riviste, per cui non si deve fare assolutamente del male a nessuno, ma garbatamente si deve, diciamo, per fare l'esempio della donna da terra, sollevare la donna da terra e accompagnarla fuori dall'alloggio. Quindi questo, diciamo, si può fare come un'azione di polizia. Secondo noi si può fare cambiando le modalità di intervento, ma essendo meno timorosi dell'eventuale ritorsione, denuncia, eccetera. Però scusi, mi permetta di dire una cosa. Le case, quando noi ci siamo insediati nel 2011, la situazione delle case occupate era già questa. No, non vorrei che si pensasse era già questa. Allora, il problema che noi ci siamo posti, ed è il problema politico che abbiamo ancora adesso, è, insisto, prima di tutto la prevenzione delle nuove occupazioni. Ma infatti, nessuno sta dicendo da quando c'è il comune. Perché le dico questo? Perché il fenomeno, poiché c'è una crisi sociale, 12.000 sfratti l'anno vengono fatti a Milano, va bene? Siccome la crisi è molto forte, noi abbiamo una recrudescenza del fenomeno dovuta al fatto che c'è un racket di quartiere che sfrutta, cioè questa gente viene messa dentro facendogli pagare per entrare nell'alloggio ma è assolutamente così. Se ne parla in questo momento perché tante volte anche l'informazione punta e accende dei fari su alcuni fenomeni, come in questo caso c'è stata un'inchiesta soprattutto del Corriere della Sera, ma anche di altri quotidiani, e quindi la questione è diventata anche un pochino politica. Io devo andare però in pubblicità, so che forse l'assessore Benelli ci deve lasciare per un altro impegno, e la ringrazio per questo. Torniamo tra qualche minuto, se volete anche con le vostre chiamate 800 24 00 24, sul tema delle case occupate, che riguarda la sicurezza delle nostre città. La sicurezza 24 mattino. Allora, il tema delle case occupate, le 8:39 minuti, tema che incide sulla sicurezza delle nostre città. Mi scrive Simonetta dicendo che per onore di cronaca è stata la trasmissione Virus di Nicola Porro a fare per prima l'inchiesta sui quesiti, su questi temi. Va bene, ma molti giornali, ma non è questione di correre a chi è stato primo. Comunque, onore anche a Porro e a Virus. Vorrei sentire due ascoltatori. Laura da Milano, buongiorno Laura. Buongiorno Alessandro, mille complimenti. Vorrei solo raccontare una cosa all'assessore Benelli. Che però ci ha lasciato, aveva un impegno, dica però. Glielo racconterà lei. Va bene. Io ho 71 anni, vivo a Milano, sono nata a Milano. Avevo una zia anziana nelle case di Alzaia e Naviglio Pavese. aller popolari da sempre, le peggio che ci sono, la quale si è ammalata, aveva bisogno di assistenza, è venuta a casa nostra. Mia figlia, che desiderava uscire di casa, è andata in nella casa della zia, è stata sfrattata nel giro di un mese. Ma perché non è che aveva il diritto però di non stare... aveva il diritto assolutamente, ma siccome la zia era qui da noi, avevamo fatto uno scampo temporaneo, adesso mia figlia vive e lavora a Bruxelles, e quando l'ha sentito e mi ha detto come siamo messi bene a Milano, volevo farglielo sapere, signor Benelli, come funzionava una volta e come funziona ora. Semplicemente, non voglio commenti. Cioè, lì in un mese è stata... ma è chiaro, è raccontare questa cosa. Era farglielo sapere. Va bene, va bene. Io la ringrazio, Laura, per questa sua testimonianza. Vorrei andare a Salerno da Guglielmo. Buongiorno, Guglielmo. Buongiorno, buongiorno. Senta, ci sono due cose che francamente mi suonano strane. Sì. Prima è la funzione dell'ALER. Sì. Non credo che abbia anche funzioni di forza pubblica, qualora per caso un ispettore... No, infatti può prevenire, cioè può fare ispezioni, mettere vigilante... Non è il caso che si trovi sul posto nel momento in cui c'è un tentativo deve avvisare le forze dell'ordine. Siamo punto e a capo. Cioè. Però sa, in flagranza di effrazione le forze dell'ordine possono intervenire. Il problema è quando uno si posiziona dentro, magari piazza bambini, allora, minori... Qui c'è un altro problema, io sono proprietario di casa, se entra in casa mia una persona e me la trovo, è violazione di domicilio. Sì, però sa, nelle case private è un po' più semplice. Ho capito, ma se la persona che è l'assegnataria da quell'appartamento a sua volta ha dei minori, che facciamo? Infatti purtroppo... Non comunque questa cosa qui. È vero, ma laddove il violato, diciamo, è lo Stato, perché essendo casa popolare, allora in questo caso no, senatore Centinaio, è un po' più complicata, mi faccia capire, perché... E se no, se fosse così facile, non ci sarebbero 4.000 case occupate solo a Milano. Sì, purtroppo è così, e purtroppo nel momento in cui il violato è lo Stato ci deve smenare, ci deve rimettere. Io continuo a essere veramente perplesso e mi dispiace che in questo momento ci sia questa guerra tra poveri, perché poi purtroppo la situazione è così, è triste ma un po' è così. Mi faccia salutare un collega giornalista, si chiama Enrico Pazzi, ci parla da Londra, dove si trova in questo momento. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Tu hai seguito per molto tempo il problema delle occupazioni abusive a Roma, ne abbiamo parlato anche in settimana, anche Roma ovviamente è una città che ha questo grande problema. A prezzo di che cosa hai seguito questa vicenda? Beh, diciamo che io seguo la vicenda delle occupazioni a Roma da circa il 2008-2007. All'epoca feci un'inchiesta sul traffico delle case ATER, specialmente nel quarto municipio di Roma, ovvero Monte Sacro. L'accoglienza dell'inchiesta non fu insomma molto, come dire, gentile, insomma, delle telefonate di minaccia, insomma, che non fecero piacere. Allora il problema è molto sentito nella misura in cui taluni partiti politici danno sponda a movimenti che appunto fanno dell'occupazione in realtà la loro attività principale. Ma perché è così difficile ripristinare la legalità, per l'esperienza che tu hai vissuto sul campo a Roma, quando c'è una casa occupata abusivamente? È difficile perché con l'occupazione si innesta un interesse poi di voto clientelare, anche di voto clientelare, laddove ad esempio il vice sindaco di Roma, Luigi Nieri, dice a una persona indagata dell'Angelo Mai su presunto sfruttamento dell'occupazione, dice stai tranquilla, con il giudice ci penso io, allora noi... Come dire, questo cioè, perché tu lo dici perché c'è cioè, in qualche carta giudiziaria questa vicenda? Beh, questa è una news che è venuta fuori sulla cronaca romana intorno al marzo del 2014. È un'intercettazione che appunto, come dire, sentiva il vice sindaco Luigi Nieri rassicurare un'indagata dell'Angelo Mai, che è un centro sociale sgomberato nel marzo scorso, quindi insomma questa c'è un'inchiesta giudiziaria e insomma sono usciti vari articoli sulla faccenda, non sono io a dirlo primo. Sì. Diciamo che però insomma anche raccontare questa cosa non ti ha portato, ecco, un clima piacevole, diciamo così, intorno. Beh, no, nel senso che il tema delle occupazioni non è un tema facile, non è un tema facile perché poi, insomma, ci sono due tipi di, come dire, dell'occupazione. C'è un'occupazione fatta a solo fine di lucro, e quindi lì chiaramente c'è tutto il traffico di vendita o subaffitti di, come dire, appartamenti dell'ATER a Roma, e quindi si arriva a vendere abusivamente un appartamento sfondato occupato dai 20.000 ai 70.000 euro, sino però invece l'altro filone è l'occupazione a sfondo politico. L'occupazione a sfondo politico fatta da movimenti sia di estrema sinistra che di estrema destra, evidentemente si va ad utilizzare lo stesso strumento, sì. prevede quindi ad esempio da Casa Pound estrema destra a Dacion estrema sinistra. Chiaramente lì si innesta uno strumento che serve a creare consenso, cioè tu sostieni l'organizzazione di stampo politico e io ti assicuro una casa, lo sfondamento di una casa, l'occupazione di un appartamento, e quindi chiaramente siamo l'ater, insomma, no, volendo. No, è chiaro, siamo anche a questi livelli di connivenza e connessione. Rimani con noi, io devo andare a sentire il traffico, poi presentiamo anche un altro ospite e ovviamente gli ascoltatori. 24 mattina. Allora, alle 8:47 minuti, vorrei intanto dare la parola a Claudio da Savona. Buongiorno Claudio. Sì, buongiorno. Allora, la mia osservazione è molto semplice, personalmente mi appare di buon senso, ma a quanto pare. Allora, questa gente sta commettendo un reato. Sì. Lei dice, ma se uno si rifiuta di farsi portare via, e se io mi rifiuto di farmi arrestare, cosa fanno? No, ma infatti... Lei provi a prendere un bambino o un portatore di handicap e andare ad accamparsi a Montecitorio o alla Galleria degli Uffizi. Guardi Claudio, io sono d'accordo con lei, cioè secondo me bisognerebbe utilizzare e tirar fuori una persona da una casa occupata illegalmente. Come glielo devo dire, Claudio? Avere la possibilità di fare irruzione e portare via sta gente con la forza, come si fa in ogni altro caso, perché non vedo perché se uno viene a casa mia e devo stare 21 giorni con la polizia che tratta attraverso la porta con della gente che commette un reato, se invece io vado in un museo mi prendono e mi sbattono fuori il calcio in culo. Non la vedo la differenza. Va bene, è stato chiarissimo Claudio e la ringrazio per il suo intervento. Vorrei salutare intanto il presidente di Brescia Mobilità, Valerio Prignacchi. Buongiorno presidente. Ci sente? Sì. C'è la linea? No, vabbè, ripristiniamo allora la linea. Intanto, senatore Centinaio, le chiedo questo: il fatto che tre case su quattro siano occupate da stranieri a Milano, questo come dire, spinge la Lega a farne una campagna più intensa, politicamente parlando? No. Assolutamente no, chi commette un reato è da punire, sia che sia un italiano, sia che sia un immigrato, sia che sia il Presidente della Repubblica, quindi sotto questo punto di vista non diventa una battaglia su se sei immigrato, se sei italiano. Io l'abbiamo sempre detto, la legge deve essere rispettata, dagli italiani prima cosa, e deve essere rispettata da chi entra legalmente e purtroppo ormai, ahimè, illegalmente nel nostro paese. Questo è chiaro, perché sa, la battaglia politica sembrava anche orientata da quel punto di vista, però questa è cronaca di giornali, che tre case su quattro a Milano siano occupate da stranieri. Allora, abbiamo ripristinato la linea con Valerio Prignacchi, che saluto, presidente di Brescia Mobilità. Buongiorno presidente. Buongiorno. Allora, Valerio, siccome si sta parlando di sicurezza, stiamo parlando di case occupate, un problema di sicurezza, si è parlato anche di vigilantes per le case occupate. Il tema vigilantes è molto molto sentito a Brescia, perché lei ha preso questa decisione fare ricorso anche a un servizio di personale armato sugli autobus di Brescia, perché presidente? Per garantire la sicurezza dei viaggiatori? Sì, armato perché le guardie giurate per definizione armate, e perché evidentemente una serie di eventi che non hanno caratterizzato la situazione per un'emergenza, ma sicuramente hanno dato un segnale di evidente preoccupazione che cominciava a serpeggiare anche fra l'utenza. Abbiamo ritenuto di tanto applicare una legge regionale che la Lombardia ha approvato lo scorso anno, e che consente appunto di integrare i servizi di controlleria con la presenza di guardie giurate a bordo. E poi perché dopo una serie di valutazioni fatte con la prefettura, con le forze dell'ordine, si è ritenuto che questa potesse essere una ulteriore azione tesa a migliorare quel livello di sicurezza che già peraltro i nostri veicoli, parlo di bus e metropolitana, Brescia è una città di piccole e medie dimensioni che però ha una metropolitana da poco tempo, sì, e che ha un servizio di videosorveglianza direi estremamente innovativo, peraltro ha consentito questo servizio di individuare velocemente i responsabili di queste aggressioni che nei giorni scorsi si erano perpetrate ai danni dei nostri controllori con una evidenza abbastanza eclatante. Però Presidente, che messaggio è? Io devo dire, molti quando succedono questi episodi dicono no, ma assolutamente io sono contrario, c'è chi dice no, io sono favorevole, io sono di quelli che dice se vede una persona, che ne so, quando c'era il controllo dell'esercito di alcune strade a Milano, io avevo la fortuna di avere una camionetta dell'esercito sotto Viale Monza, dove abito, e mi sentivo sicuro, mi sentivo tranquillo, cioè uscire alle 5 del mattino, però sa, molti cittadini invece dicono no, ma che facciamo, militarizziamo anche gli autobus? Allora io le do un dato: se mi ferma la polizia per strada io mi sento tendenzialmente più sicuro, perché vuol dire che c'è una situazione di controllo che mi consente di muovermi in uno spazio presidiato, non presidiato in termini militari come si usa dire, ma presidiato dalla ordine precostituito, che in una collettività variegata come la nostra è uno degli elementi che garantiscono la civile convivenza di una collettività, ripeto, anche un po' variegata. Detto tutto questo, Brescia non è un caso isolato, io ho segnali da ATAC e ATM, le due più grandi aziende, ma Salerno, Brindisi, Verona, Bergamo, cioè sono situazioni che si stanno sviluppando, ma le do un dato: Parigi 1200 guardie giurate sulla rete della mobilità urbana, Strasburgo, città grande come Brescia, sede delle grandi istituzioni europee, città simbolo della tolleranza, da anni nella rete della mobilità affianca e integra i servizi di controlleria con guardie giurate, e questo non ha mai creato, credo, situazioni di natura sociale o di tensione sociale. Semmai c'è una questione di sicurezza reale e percepita, nella quale noi siamo attivi, ripeto, con la videosorveglianza, con la formazione del nostro personale, e alla quale abbiamo aggiunto questa opzione che potrebbe anche non permanere, potrebbe essere anche temporanea, solo una situazione temporanea, per ripristinare quella situazione di normalità che è giusto che a bordo dei nostri veicoli debba esserci. Io intanto la ringrazio, Presidente. Vorrei andare da Enrico, che ci chiama da Venezia, grazie al Presidente Valerio Prima Gnacchi di Brescia Mobilità, che ci ha spiegato perché mettere dei vigilanti armati, perché sono guardie giurate che girano sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto a Venezia, a Brescia. Enrico da Venezia, buongiorno Enrico. Buongiorno Milan, complimenti veramente. Volevo fare una piccola provocazione in relazione al discorso che ho sentito, che se si trova in queste case una donna con un bambino o due in braccio non si può fare niente. Allora ho detto alla sua collega al telefono, facendo una provocazione, io adesso cerco una signora, una complice con un bambino piccolo, vado a fare una bella... Perché crede che non succeda sulle case, succede proprio così. Aspetti, volevo fare un'altra cosa. Una rapina in banca sicuramente non la faccia, ci mancherebbe altro, però in teoria dovrebbe essere la stessa cosa. Ma volevo aggiungere una cosa, se permette. Io sono proprietario di un appartamento, un inquilino che dopo non aver pagato gli ultimi mesi se n'è andato già da due mesi, ha lasciato il garage pieno di spazzatura, ho invitato diverse volte a liberarlo perché ho già un altro inquilino che ha già il contratto e lui si rifiuta. Ho telefonato al 113 per sapere se posso andare a togliere la roba, mi hanno detto che loro non mi possono autorizzare, ci vuole un'autorizzazione dell'inquilino precedente. Se questo non me la dà, lasciamo la spazzatura. Niente, lasciamo la rumenta, la spazzatura. Enrico, benvenuto nel paese Italia, insomma, su alcune cose è così. Allora, Enrico Pazzi, so che sta scrivendo un libro dal titolo che sta uscendo, il titolo è un po' impattante, com'è? Roma fa schifo? Questo è. Sì, purtroppo Roma per certi versi fa schifo. Prima raccontavo del vice sindaco Luigi Nieri, ed è insomma un fatto che a me ha colpito molto, il fatto che Nieri tranquillizzasse una persona dell'Angelo Mai che era sotto indagine. Purtroppo io do alcuni numeri molto velocemente. Allora, a Roma Daccene uno perché dobbiamo chiudere, purtroppo. Daccene uno. Allora, a Roma 30.000 famiglie attendono l'alloggio, sì, e all'anno oltre 5.000 persone sono degli abusivi. Abusivi, insomma, con questo numero ci fermiamo. Ti ringrazio, come ringrazio il senatore Gianmarco Centinaio, capogruppo della Lega al Senato. Ci fermiamo qui, a lunedì.